Lui poi lì è stato un'università, perché a Lipari c'era prima Austica e poi a Lipari, adesso confondo un po' tutte e due, no, Austica ho conosciuto Gramsci, che l'ha preso a ben volere, perché c'erano dei giovani comunisti in adorazione di Gramsci, che praticamente si erano fatti arrestare perché volevano aiutare questo qui, anziano, malmesso, come malato, eccetera, eccetera. E allora, quando Gramsci ha fatto a Ustica una scuola di giornalismo, era proibito parlare di politica, ma quando non sentiva nessuno parlavano di politica. Senza carta, senza niente, fare gli articoli era difficile, dovevano recitarli a memoria. E tutti questi giovani comunisti che frequentavano Gramsci abbracciavano la linea del partito, non è che facevano un passo di distanza. Invece mio padre si divertiva a fare un articolo reazionario al massimo su quello che succedeva in Cina, la guerra. Ecco. E Gramsci, che aveva senso dell'umorismo, si divertiva molto di più con mio padre che con i suoi compagni, capisci? Per cui dopo un po' ha fatto anche delle proposte, non so se mirava di averlo dalla parte sua anche fuori, diciamo, politicamente, e gli ha detto: ma perché non, tu dove dormi? Nel camerone con gli altri 200? Cioè, no, se vuoi possiamo trovarti una camera, eccetera. E lui: sì, volentieri, ma chi paga il partito? Sì, io non sono del partito, non posso accettare. Non se n'è fatto niente, però gli ha pensato. E l'ultimo ricordo di mio padre è di Gramsci al porto, perché non avevano il diritto di andare sul molo, ma dai cancelli vedevano Gramsci malaticcio che ci trascinava una valigia senza farcela. E allora chi l'ha aiutato è quello, è il solito, come anche nelle prigioni, che all'autorità di un po' smussare il regolamento quando non c'è niente di male, cioè il cappellano. L'ultima immagine di mio padre è di Gramsci con le catene, con i schiavettoni, non c'erano ancora manette, che saliva sopra la scala, e il cappellano dietro di Lipari con la valigia di Gramsci che gliela portava. E poi dopo è stato trasferito a Lipari, e lì è stata la vera università. C'era come si chiama, Torreggiani, il gran maestro della massoneria, c'era Rosselli, c'era una quantità di persone, c'era, aspetta, il vero creatore del Partito Comunista, come si chiamava, quell'ingegnere napoletano, Gordiga. Guardiga, sì, che gli ha insegnato a fare una meridiana per sapere l'ora precisa. Volevano fare una mongolfiera per cercare di evadere incollando giornali, eccetera. Poi hanno cominciato a fare i calcoli, hanno visto che dovrebbe essere grande per sollevare 70 kg, insomma. E poi il fuoco, insomma, se ti pare che si passa inosservato, insomma, hanno rinunciato. Però alla fuga ci hanno pensato sempre. Ci ha pensato soprattutto Rosselli, che aveva, direi che l'idea era sua, e che aveva anche i mezzi, perché sua moglie era piuttosto ricca. Per cui hanno provato una volta con un motoscafo, non è andata bene, la seconda volta invece ci sono riusciti. C'era Fausto Nitti, il nipote di mio nonno, c'era Lussu, che aveva preso a schioppettate chi aveva assaltato la sua casa a Cagliari. Ci sono voluti, mi sembra, 3 o 4 tribunali diversi per riuscire a condannarlo, perché la legittima difesa era così chiara che la magistratura non era ancora del tutto asservita, che trovare 3 o 4 giudici disponibili. Tuo padre nella fuga fu quello che poi alla fine la organizzò Diciamo che fu materialmente. indispensabile perché mio padre, come giovane di buona condotta a Lipari, fu graziato e fece pochi anni e poi se andò libero, con l'obbligo di firma a Roma, a casa sua. E allora doveva la sera andare in un commissariato e firmare. Per poter invece andare in Francia, hanno messo su una commedia con una sua amica e compagna repubblicana, dello stesso partito di mio padre, di Napoli, e hanno fatto finta che si volevano sposare. cosa che la polizia vedeva sempre di buon occhio, perché uno mette la testa a posto, figurati se fa queste cose qui. E allora hanno fatto questa finta, perché lui aveva anche diritto di viaggiare, dicevo, però questa sera non firmo a Roma, ma firmo al commissariato di Napoli, perché ho questo rapporto di promessi sposi, eccetera. È sempre andato bene, 2 o 3 volte, finché un giorno è andato a Napoli senza avvertire. Allora la polizia allarmata, telefonano a Napoli, sì, ma ha firmato come al solito. Cioè si sono tranquillizzati, capisci, con questa finta. Che... E infatti 1 o 2 settimane dopo mio padre parte, però per il Piemonte. Quindi lo cercano a Napoli senza neanche tanta fretta, no? È sempre andato. E lì conosceva i canali, i compagni anarchici, gli altri gli hanno indicato come andare a piedi a passare il confine. E si è trovato senza soldi, senza niente, in Francia, camminando per andare a Parigi, dove qualche contatto ce l'aveva, di emigrati. E mi dice che non so quale pianura del sud della Francia, una strada deserta, lui camminava, e a destra e a sinistra si sono affiancati 2 gendarmi a cavallo, Boupapier, e hanno chiesto i documenti, lui non aveva quelli in regola, soprattutto quelli per poter espatriare, ma aveva il certificato di rifiuto della sua candidatura per la scuola di piloti di aereo, di non so quale città italiana, no? C'è la corsa, la scuola piloti, e tu hai fatto domanda e sei escluso. Però quelli non sapevano l'italiano, hanno visto esercito italiano, aeronautica, scuola ufficiali, uno dei gendarmi, ma vous êtes officier? Ah boh, se ne sono andati, strani questi ufficiali italiani, morti di fame a piedi sopra, eccetera. E, però comunque è arrivata a Parigi, allora quando hanno cominciato a pensare sul serio a una possibilità di fuga, di evasione, mio padre era preziosissimo, perché era già conosceva tutti i luoghi, capisci? Allora quando hanno detto, ma ci vuole uno che vada proprio lì a Libera, c'erano luoghi, spiagge, scogli di liberi che erano proibiti a quelli, insomma, ai confinati. E allora l'appuntamento fatto con un inchiostro simpatico attraverso la moglie di Rosselli, che parlava di vestitini, di cappellini, di moda a Parigi, e si sono messi d'accordo sull'appuntamento a quel tale scoglio, capisci? Cioè è stato prezioso in questo, perché poi oltre a dare l'appuntamento lui era in grado di guidarli per via mare anche a questo appuntamento. E sono andati fino alla Galita, hanno fatto finta di essere equipaggio di Lord Cave, un inglese, avevano la bandierina inglese come si vede anche dalle foto. Lord Cave non esisteva, Cave era il nome del padre della moglie di Rosselli, era un Cave. Lì hanno mangiato aragoste per non so quanti giorni, e per farsi dare la benzina a Lord Cave, e quelli l'hanno data, ti pare che un Lord rifiutasse. E hanno potuto raggiungere Tunisi, mettere la barca sopra la nave di linea e sbarcare a Marsiglia. Tutti e tre, dopo aver pagato il biglietto. E grazie a quella storia lì, poi tuo padre fu, diciamo, introdotto nel circolo di amici di tuo nonno, perché infatti ne c'è... Sì, più di amici nella corte di questi qui, insomma, mio nonno era il più rappresentativo. E quando entrava qualcheduno, anche uno straniero, non so, il Kerensky o non so chi, questi ministri, presentava mio padre come l'eroe, questo quando l'Italia diventerà libera, sarà ministro di questo e di quest'altro. Quando si è accorto che mio padre metteva gli occhi su una figlia, ha cambiato da così a così, è diventato il meridionale capo famiglia, insomma, non ha mai accettato che qualcuno insidiasse le sue figlie, sia la zia Filomena sia il nonno. Su questo era rimasto, diciamo, meridionale, tradizionale, insomma.